Abbiamo una tristezza infinita dentro tutti quanti perché avevamo programmato un 75esimo anniversario davvero ricco, voleva essere addirittura una 2 giorni, quindi dovevamo proprio fare una festa enorme, quindi ripeto, ovviato è una parola grossa, però questa situazione ci ha dato l'opportunità di confermare che Montesole ha davvero tantissimi amici, perché fin dall'inizio di questo mese abbiamo lanciato un appello per mandarci contributi e per partecipare in qualche modo al nostro 25 aprile virtuale. C'è una pagina Facebook che in realtà è lì da tanti anni e forse aspettava solo di essere appunto così partecipata e così visitata, che è 25 aprile Montesole percorsi antifascisti, e quindi noi proveremo ad avere i nostri percorsi antifascisti anche in quella giornata e anche online, purtroppo. Dicevi che sono arrivati diversi contributi, di che genere? Vari, è molto bello anche questo. Abbiamo ricevuto contributi sia da cittadini e cittadine che ci hanno voluto raccontare, per esempio, i loro ricordi dei 25 aprile a Montesole, quindi ricordi veri e che ci hanno riportato indietro nel tempo, oppure hanno condiviso fotografie, storie di famiglia, e qualcuno si è cimentato con delle dediche a partigiani più o meno vicini o più o meno lontani alla loro esperienza. Qualcun altro ci ha mandato dei contributi con delle riflessioni sul significato, per esempio, di resistenza e liberazione. Non faccio nomi perché in realtà magari qualcuno ce lo teniamo come sorpresa di qualche personaggio più noto o più conosciuto, mettiamola così, però la cosa che ci ha fatto veramente molto piacere è stata anche la fantasia e vedere come le persone abbiano declinato questa festa di tutti nella loro personalissima maniera. Parliamo delle cose che succederanno magari anche solo virtualmente o comunque ovviamente non fisicamente. Calendario stabilito soprattutto con gli orari è ancora in via di definizione, quindi non posso fare altro che rimandarvi ovviamente al continuo aggiornamento delle nostre pagine Facebook. Però in realtà il 25 aprile di Montesole sarà in strettissima sinergia con quello cittadino e con quello della città metropolitana di Bologna più in generale, per cui dovremmo aprire la giornata attorno alle 9:15 con la deposizione, con il video ovviamente, lo streaming della deposizione della corona al sacrario ai caduti di Marzabotto. Cederemo poi la linea e condivideremo la diretta da Piazza Maggiore, dove il sindaco e Anna Cocchi dovrebbero fare le orazioni ufficiali. Sarà strano forse vedere una Piazza Maggiore deserta, ma sarà davvero molto interessante, per poi riprendere la linea e appunto mandare in streaming un montaggio di tutti questi contributi che vi dicevo prima. L'ultimo appuntamento certo della giornata sarà quello delle 3 del pomeriggio, quando anche noi aderiremo all'iniziativa dell'AMPI nazionale, proprio nell'ora in cui tradizionalmente parte il corteo nella città di Milano, e aderiremo al flash mob del cantare Bella Ciao dai balconi. Qualcosa succederà anche prima, dal 20 al 24 di aprile alle 17:30, ogni giorno ci saranno delle letture su Radio Città Fujiko alle 17:30. Curate dalla scuola di Passi di Montesole, è come la nostra pagina, è stato un lavoro collettivo, ci siamo impegnati tutti quanti, quindi io presto la voce, sono quella più sfacciata e quindi la mia voce va avanti, ma in realtà il lavoro, come tutto il lavoro della Scuola di Pace, è collettivo. Aggiungo solo che anche sulla pagina della Scuola di Pace potete trovare qualche contributo, forse in maniera originale, nel senso che la Scuola di Pace ha anche un po' di amici internazionali internazionali a cui abbiamo chiesto di mandarci un pensiero, e quindi stanno arrivando non solo per la situazione di emergenza in cui ci troviamo, ma anche proprio per la condivisione dei valori rispetto alla festa della liberazione. Appunto, ci stanno arrivando dei regali da amici abbastanza lontani, quindi anche la nostra pagina Facebook sarà a disposizione del 25 aprile di Montesole.